Gira più piano la scappagalline. Sono rimasto senza broda. Restami 20, ti ridò 30. A meno che io rimango senza qualcuno ha una sigaretta. Per quattro amici, mille luci, un altro è andato via. Qualcuno ha una sigaretta. Sono rimasto senza fare niente. Vedo gente che al presente segue bene la corrente, indifferente a quello che dico io. Volare piano non è di moda. Sono rimasto senza roba. La vita è corta, l'amore boia. Lavorare mi viene a noia. Qualcuno ha una sigaretta per digerire questa vita che mi scappa via. Qualcuno ha una sigaretta. Sono rimasto senza fare niente. Vedo gente che al presente segue bene la corrente, indifferente a quello che dico io. I giorni passano, ma io sono contento di avere un sogno, di fare un sogno. I giorni passano, ma io sono contento avere un sogno, di fare un sogno con te, con te, di avere un sogno, di fare un sogno con te, con te, con te.